Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, meno male che erano tutte messe bene le nostre banche, perché insomma, da giudicare dalla richiesta effettuata oggi alla Banca Centrale Europea, sapete che oggi c'è stata la seconda parte di questo modo in cui Mario Draghi, a nostro avviso in maniera molto molto molto furba, in questo caso come complimento, sta cercando di cambiare la morfologia, i tratti alla Banca Centrale Europea, che per statuto non può stampare moneta come fanno le altre banche centrali, non garantisce in ultima istanza le banche della banca dell'area euro come fanno invece le altre banche centrali, però insomma, prestando questi soldi alle banche all'1% sta uscendo forse formalmente secondo gli ortodossi dal suo ruolo iniziale, ma sicuramente sta intervenendo più come una vera banca centrale. Dicevo, meno male che le banche italiane l'hanno messa bene. Insomma, la Banca Centrale Europea oggi ha prestato con una mega asta 500 e passa miliardi di euro, adesso ne parleremo in apertura, e 489 miliardi nella prima asta, questa volta invece 529. È una cifra record superiore alla stime della richiesta, alle stime iniziali sulla richiesta, cioè si immaginava che tutte le banche europee, sono 800 le banche che hanno fatto domanda di avere questi soldi, praticamente facciamo prima dire chi non l'ha fatta che chi l'ha fatta, ma dicevo, ne hanno chiesti più di quello che non si immaginasse, infatti 530 miliardi. Le banche italiane hanno chiesto più di 100 miliardi, 116 miliardi, cioè hanno chiesto un quarto quasi dell'ammontare, tra un quinto e un quarto. Ci sono ancora un po' di dubbi su quanto abbiano chiesto le singole banche. Unicredito ha smentito di aver chiesto 12 miliardi e mezzo, la cifra è molto inferiore. UbiBanca ha fatto sapere che ha chiesto 6 miliardi, Intesa San Paolo ne ha chiesti 24. Voglio dire, bene, insomma, speriamo che stavolta almeno sti soldi che vengono prestati con tasso dell'1% e quindi, voglio dire, il tasso iperagevolato, le banche devono dare dei collaterali come garanzia, questo è un discorso un po' tecnico, poi ci arriviamo, speriamo che adesso invece che sistemarsi, ricomprarsi le loro obbligazioni in scadenza, come hanno fatto con col primo prestito, e comprare titoli di Stato anche su pressione del governo, speriamo che questi soldi vengano anche dati alle imprese e ai cittadini, soprattutto alle piccole e medie imprese, agli artigiani, ai commercianti e ai cittadini, sempre con il criterio della sana e prudente gestione, però gestione, non sana e prudente chiusura, perché sennò sana e prudente chiusura siamo capaci tutti. Di questo parliamo in apertura, poi chiaramente la vicenda che riguarda il presidente di Unicredito Rampl, da un lato, dall'altro anche e soprattutto un tema che a noi sta molto caro, le quote latte. Il governo ha detto devono pagare gli allevatori, per noi è una vittoria, ma avremmo anche chi la pensa in maniera esattamente contraria. Sapete che questo programma sul pagamento, su quello che ci sono costate le quote, lo sforamento delle quote latte per colpa di qualche centinaio di allevatori, a fronte di una stragrande maggioranza di allevatori onesti e che non vogliono rispettare quella che è la legge, mi dispiace che non gli vada bene, ma è la legge, abbiamo pagato miliardi di euro in questi anni. E poi l'intervista con Andrea Guerra, numero uno di Luxottica. Luxottica ha diffuso oggi dati eccellenti, è leader mondiale negli occhiali di lusso, ha 7.000, se non ricordo, negozi in giro per il mondo, 7.000, ha chiuso l'anno con un più 11% nei dividendi, oltre che un fatturato in netto aumento soprattutto nei paesi emergenti, Turchia, Cina e tanto Sud America. 349-238-6666 per i vostri sms. Con Guerra però parleremo anche di cosa significa essere giovani in questo paese, visto che lui viene spesso citato come uno dei casi di giovane manager, adesso insomma va verso i 46, però di giovane manager non figlio di, non da capitalismo relazionale. Dicevo che 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Vediamo subito come hanno reagito le borse all'asta, la mega asta di Mario Draghi di oggi, quindi a questo mega prestito, scusatemi, più 0,30%, sono un po' ritracciando Milano, più 0,20% Parigi, meno 0,12% Francoforte e meno 0,60% Londra. La cosa più importante però è lo spread in questo momento, che è sceso ulteriormente, è sceso a livelli che non vedevamo da agosto, se non ricordo male, e vi darò adesso il dato, da fine agosto, inizio settembre per la precisione, con punti sostanzialmente molto molto in ribasso. Dicevo, Luxottica tra l'altro è il miglior titolo, più 6% in questo momento, e più 3,94% il Monte dei Paschi, più 3,5% Mediolanum, più 2,70% Banca Popolare di Milano. Lo spread è a 340 punti, quindi a livello più basso da fine agosto, inizio settembre. Chi va male in borsa? Diasorin meno 2,20, Media 7 meno 2,1, ST Microelectronics meno 1,80%. Rapidamente le altre notizie in breve. Nel frattempo, dall'America continuano ad arrivare notizie abbastanza incoraggianti. Il PIL americano è stato rivisto al rialzo, il PIL dell'ultimo trimestre del 2011, più 3% contro il 2,8% precedente, tant'è che il numero uno della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, ha detto oggi c'è una leggera accelerazione nella crescita rispetto alle attese, anche se il mercato del lavoro americano è ancora lontano da una condizione di normalità. Nel frattempo però oggi la Banca Centrale Europea è tornata a comprare titoli di Stato del Portogallo nel caso specifico, mentre dalla Spagna arrivano notizie preoccupanti, nel senso che il deficit nel 2011 non è stato del 6%, che è già una cifra altissima come previsto da Zapatero, ma l'ho comunicato oggi il nuovo Premier Mariano Rajoy, all'8,5%, ed è un livello alto, altissimo. Della riforma fiscale vi hanno detto i nostri GR, Monti oggi ha detto il peso delle tasse sarà sempre più da quelle dirette a quelle indirette, punteremo a valorizzare il merito. Vedo già molti messaggi sul latte, adesso ci arriviamo, la Camera ha detto basta con le proroghe al pagamento di queste quote latte, vanno pagate le quote latte e fine, mi sembra una decisione quantomeno di buonsenso. Volete sapere se il governo metterà la fiducia sul disegno di legge liberalizzazione? Già l'hanno sventrato abbastanza, mi sembra. Se non voglio tornare sulla polemica, ma insomma. Ci sono adesso 1700 emendamenti, quindi modifiche dei vari partiti. Io penso che insomma, la fiducia arriverà per forza, no? Allora, è un periodo che molti di voi ci chiedono, ma forse anche giustamente, della Val di Susa. Noi della Val di Susa, come di grandi opere infrastrutturali di questo paese, abbiamo parlato molte volte nel passato. Sapete che la posizione di questo programma è molto scettica sulle grandi opere. Non abbiamo mai capito il perché del ponte sullo Stretto di Messina, non il perché complessivo, ma insomma rispetto ai benefici. Sulla Val di Susa abbiamo avuto molte volte ospiti, anche penso al professor Ponti, economisti fortemente contrari a quell'opera, che dicono che la tratta Torino-Modane è già sottoutilizzata, che comunque non porterebbe nulla di più, l'investimento non vale il ritorno per un'alta velocità sulle merci. Altri nostri ospiti hanno obiettato che invece serve, perché questo è vero, non è una decisione italiana, è una decisione che riguarda i corridoi europei, i Trans-European Networks. Quello è il corridoio 5, cioè il Barcellona o Lisbona-Kiev, che se non facciamo quell'opera non passerà, diciamo, nel nord Italia, ma passerà di là dalle Alpi, a mio avviso con un danno logistico per il paese, perché la Val di Susa è solo un pezzetto di quello che poi deve essere il corridoio, che appunto dall'ovest va all'est, da Lisbona-Barcellona va fino a Kiev, transitando sul nord Italia e agganciando l'Italia al resto del continente. Ognuno può pensare come vuole. Detto ciò, e ribadisco, i dubbi sono legittimi, i governi hanno valutato e votato, centrosinistra, centrodestra. Detto ciò, è inaccettabile che diventi un elemento ideologico. Immagino che nessuna valle, nessun valligiano ami avere un'autostrada che passa, siamo tutti d'accordo, però le dobbiamo anche costruire ogni tanto le opere infrastrutturali. E poi che dietro ai NOTAV ormai ci sia di tutto, che ha a che fare più con una critica al sistema capitalistico tout court che non alla difesa di una valle, beh, insomma, l'avete capito con quello che è successo ieri. Io non c'entro nulla con questo programma, ma un encomio solenne come quello che il comandante dei carabinieri oggi ha dato al suo carabiniere, che si è beccato insulti ieri senza reagire, è una delle più belle notizie della giornata. Sentiamo un po' quel passaggino. Che pecorella sei? Non c'hai un numero, un nome, un cognome, niente, vero? Sai che sei un illegale, dovresti avere un numero di riconoscimento. Io così non so chi sei, tu sai chi sono io. Vero pecorella? È vero pecorella? Sei forte, non c'è roba che c'hai io. Ma sai anche sparare? Sai sparare? Volevi detto sparare? È carino. Mi dai anche i bacini alla tua ragazza con la mascherina. Così non ti attacchi la malattia. Bravo, bravo. Comunque per quello che guadagno non vale la pena, secondo me. Voi siete divertiti? Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro. Cioè, qualcuno me lo dovrà spiegare cosa c'entra insultare un carabiniere che sta facendo il suo lavoro, perché gli hanno detto di stare lì, fa ordine pubblico, con la discussione sulla TAV. Dai, su, per favore. È nostra piccola vita. Cuore. Più concretezza, meno ideologismi, andassero a trovarsi qualche altro spunto per gli scontri con la polizia. Noi invece con Carotone, con il mondo difficile, ci occupiamo adesso delle banche, perché è un mondo difficile per queste banche. È un mondo difficile e vita intensa. Cioè, insomma, 116 miliardi hanno chiesto alla BCE le banche italiane e da fine dicembre adesso Mario Draghi ha dato alle banche europee 1.000 miliardi tra dicembre e oggi. Che cosa se ne fanno? Secondo gli analisti 320 miliardi complessivi serviranno per pagare le loro obbligazioni in scadenza, cioè prestiti che hanno chiesto, che stanno scadendo, altri 50 miliardi per l'acquisto di titoli di Stato. Insomma, se queste fossero le proporzioni, anche a casa nostra dovremmo avere 60-70 miliardi per le imprese, per lo sviluppo, non ci contate. Comunque, Moria Longo, sono 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Moria, fammi capire una cosa, al di là di quanto abbiano chiesto le singole banche, 24 miliardi Intesa San Paolo, Unicredito dice che ha chiesto meno di 12 miliardi e mezzo, UBI 6 miliardi, Banco Popolare ha chiesto 3 miliardi e mezzo, Mediobanca ha chiesto 3 miliardi e mezzo. Come funzionano queste? Cioè, uno fa la domanda, perché sembrava che dovesse essere più bassa l'offerta della banca, cioè tecnicamente io vado lì che voglio 10 miliardi. Esattamente, funziona così. A importi illimitati tutte le banche dell'area euro possono potevano partecipare. Che c'è un'unica condizione, che consegnino titoli in garanzia, perché non è un prestito libero, diciamo, in un certo senso, ma è un pronti contro termine, cioè le banche devono dare titoli in garanzia. Va sottolineato che le banche centrali, per favorire il più possibile le banche europee ad andare in BCE, hanno allargato tantissimo il ventaglio dei titoli da dare in garanzia. Alla precedente asta addirittura il governo italiano fece una legge per fare in modo che le banche potessero emettere dei titoli obbligazionari, tra virgolette fittizi, tra virgolette garantiti dallo Stato, che avevano l'unico scopo di essere consegnati alla Banca Centrale Europea per prendere finanziamenti. Quindi sia i governi, sia le banche centrali, non solo quella europea ma anche le banche centrali nazionali, hanno fatto di tutto per far sì che le banche europee potessero prelevare a Francoforte il più possibile, allargando al massimo il ventaglio dei titoli consegnabili in garanzia. Allora, vedo che chiaramente il commento sulla TAV sta scatenando alcuni di voi. Non parliamo, non invito i sindaci della Valle, nel senso che qui in discussione non è più l'opera, è un problema di ordine pubblico per quello che mi riguarda. Non è vero che non siamo favorevoli all'opera al sud e solo all'opera al nord. È anni che invochiamo la fine della Salerno e Reggio Calabria. Il problema del ponte sullo stretto è che se non facevi gli allacciamenti ferroviari serviva a nulla. C'è un binario unico ancora sulla Palermo-Messina, di cosa stiamo parlando? E poi c'è chi scrive: quando c'era Berlusconi eravate contro la TAV, adesso siete a favore della TAV. Ma che programma ha ascoltato lei? non lo sappiamo. Comunque, torniamo alla Banca Centrale Europea, perché tu ricordavi giustamente, cioè, non c'è un tetto. No. Teoricamente potevano chiedere anche 600, 700 miliardi. Però come fa la BCE a prestarli? Perché alcuni dicono, ma in sostanza Mario Draghi, senza dirlo ad alta voce ai tedeschi, sta stampando moneta. Esattamente. Allora, bisogna mettere i puntini su lei. Innanzitutto, dei 529 miliardi erogati oggi non sono tutti soldi nuovi. In parte sono semplicemente altri finanziamenti che la BCE aveva già erogato alle banche, che sono stati trasformati nel nuovo finanziamento, perché questo qua ha una durata molto lunga, di 3 anni. Mentre solitamente la BCE finanzia una settimana, un giorno, a un mese. Primo punto. Quindi il netto, diciamo, soldi nuovi effettivamente erogati oggi sono circa 313 miliardi. Punto primo. Secondo punto, sono soldi nuovi, cioè c'è creazione di moneta. Ma i tedeschi lo sanno? I tedeschi lo sanno. La gabola, diciamo, il trucco, a differenza degli americani, è che questa volta l'erogazione di moneta è a durata limitata, cioè dura 3 anni. Tra 3 anni tornano indietro. Mentre invece la Federal Reserve, Banca Centrale Americana, li eroga... Perché loro fanno il quantitative easing. Fanno quantitative easing. Questa è una cosa diversa. Che vuol dire che tu, sostanzialmente, emetti debito, emetti T-bond americani, li fai comprare alla tua banca centrale, che per comprare il tuo debito... Stampa moneta. E questo è il modo per cui tu stampi. La BCE, siccome non può farlo formalmente, però Draghi è stato di una arguzia rinascimentale, i tedeschi sono rimasti, ci hanno messo un po' a capire come li aveva fregati. Cosa ha detto? No, io non stampo moneta, io presto moneta per 3 anni. Sì, però c'è creazione di moneta. E poi la ribrucio. Sì, la stampo, te la presto per 3 anni e poi me la ridai, io la brucio. Quindi teoricamente fra 3 anni il gioco è a somma zero. Esattamente. Però la stampi. Allora, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, Moria, che mi interessava chiarire invece, è... cosa danno in garanzia? Vogliono sapere molti ascoltatori. Allora, le banche hanno dato in garanzia tutto il possibile esistente sulla terra. Mancavano allora, la moglie e le amanti. Prima davano in garanzia soltanto titoli di Stato e titoli obbligazionari di vario tipo. Dopodiché, a un certo punto, a dicembre, perché le banche erano sotto stress finanziario, erano sotto stress di liquidità? Perché non avevano praticamente più titoli da dare in garanzia. È per quello che i governi e le banche centrali sono intervenute allargando il ventaglio. Adesso sono consegnabili anche prestiti, determinati prestiti erogati a determinati imprese sotto determinati, c'è uno standard, possono essere date alla BCE per ottenere finanziamenti. Sono stati, come dicevo prima, il governo italiano ha permesso alle banche di emettere delle obbligazioni garantite dallo Stato che non vengono vendute a investitori ma vengono semplicemente date alla BCE, il che crea anche un cortocircuito abbastanza interessante, perché da un lato lo Stato mette la garanzia su queste obbligazioni, sì, le banche le danno alla BCE e con questi soldi comprano, sì, i titoli di Stato. Quindi infatti è lo Stato italiano che garantisce alle banche che comprano i titoli dello stesso Stato italiano. Quindi si crea anche un po' un cortocircuito. Sì, e questo insomma è il parliamoci chiaro, con la grossa differenza che è uno stampare moneta a scadenza, è come se la banconota fosse come lo yogurt, avesse una scadenza, fra 3 anni me la ridai, però per il resto è un'operazione classica della Banca Centrale Europea, ossia sta mettendo liquidità sul mercato. La Banca Centrale com'è che mette liquidità sul mercato? Siccome è l'unica autorizzata a stampare gli euro, stampa euro. Poi li stampa solo per 3 anni e poi se li riprende. Ma intanto li ha stampati. L'elemento che però molti osservatori, concludiamo Moria, vedono come rischioso è questo. Devo dire che lo scrivono anche alcuni ascoltatori. Se tu se è così vantaggioso prendere soldi in prestito dalla BCE, perché posso dare in garanzia anche il mio cane, a un tasso di interesse all'1%, che è zero, no? Se compro un BTP italiano mi rende il 5 e qualcosa, 5,40 lordo, per cui guadagno. Non si rischia di stimolare più del dovuto. Molti dicono, insomma, che è chiaro che hanno, anche se non avevano bisogno, uno con quelle offerte lì, chi è che non chiede soldi? Esattamente. Cioè, di generare un eccesso, di drogare il mercato. Non chiedono il metadone solo quelli che ne hanno bisogno, ma a questo punto, siccome è gratis per tutti, lo chiedono tutti. Esattamente, il rischio è proprio questo. Il vantaggio, perché bisogna parlare anche di questo, è che la BCE in questo modo ha evitato una crisi bancaria che rischiava di essere epocale, per cui questo è stato scongiurato. Ci mancherebbe. Questo meno male che è successo. Detto questo, i rischi sono altissimi. Basta vedere che le borse non aspettavano altro di conoscere il numero di oggi, cioè l'ammontare di erogazione, per salire. Se l'ammontare fosse stato più basso sarebbero scese. I mercati ormai aspettano soltanto questa, che è una droga. Il problema è che la droga ti galvanizza per un tot di tempo, dopodiché tu ne aspetti un'altra, se no un'altra dose, altrimenti... Sì, ma soprattutto la droga, usavo l'esempio del metadone, deve servire poi a uscire dalla dipendenza. Esattamente, cioè, questo è un modo... O tu banca, usi questi soldi per sistemarti i tuoi conti, le obbligazioni in scadenza e iniziare a far ripartire l'economia, così poi il ciclo è virtuoso, se no se torni... Se no è fine a se stessa, su questo siamo tutti d'accordo. Diciamo che questa operazione ha semplicemente comprato tempo, ha dato le possibilità alle banche e agli stati di sistemare determinate situazioni. Questa non è la medicina, questa è una parentesi in un certo senso. E c'è anche un altro rischio che io non vorrei... Una parentesi tra le parole credit crunch. C'è anche un altro rischio. Fino a novembre le banche crollavano in borsa perché avevano troppi titoli di stato in portafoglio. Certo. Questa operazione li incentiva a comprare ulteriori titoli di Stato. Ricordo per cui dice, se torna l'attacco ai debiti sovrani, le banche si tornano... La concentrazione del rischio aumenta. Le banche spagnole da dicembre a gennaio hanno comprato 50 miliardi di titoli spagnoli in più. Le banche italiane tra dicembre e gennaio hanno comprato 32 miliardi di titoli italiani in più. Adesso va bene perché tutto sta andando bene, i mercati vanno bene, ma il rischio Italia nel bilancio delle banche italiane sta aumentando. Allora, questo era un grosso problema a novembre, oggi è una grossa virtù. Mettiamoci d'accordo, perché le cose non è che erano tutto un problema prima e tutto un vantaggio adesso, cioè il rischio sta aumentando. Sì, non è sbagliato quello che scrive un ascoltatore, in pratica danno come garanzia un debito. Sì, sì, esattamente. Cioè, come... no, sarebbe bello poterlo fare anche noi con la banca, lo dico con un po' di malizia, andare alla banca e dire, come faceva Benigni, che adesso vi faccio risentire perché mi piace troppo quel tu mi turbi, andare in banca e dire, mi scusi, vorrei 100.000 euro di prestito. E cosa mi dai in garanzia? Beh, c'ho un mutuo con l'altra banca, bellissimo, no? E gli dai il mutuo dell'altra banca in garanzia, perché quello che stanno facendo le banche è questo, se lo butto a ridere, ma è questo, vanno alla BCE e dicono ho bisogno di 10 miliardi di euro, cosa mi dai in garanzia? Beh, tutto un insieme di obbligazioni mie, cioè di debito che ho in giro. Pensate un po' che bello se uno potesse andare in banca e dire cosa dai in garanzia, c'ho il mutuo con un'altra banca, ti do in garanzia il mio mutuo e tu mi dai 100.000 euro di prestito, e questo lo spiegò tu mi turbi. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni e pretende che noi glieli diamo? Dettone! Lei non mi vuole dare 100 milioni, ma lei va a contrario al suo nome, dottor Dio d'aiuto. Lei si contraddice, no, non ho niente, certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni, perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo, certo. Ah sì, Certo! Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga! Non glieli voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non glieli voglio! Li mette in tasca! Non glieli voglio! Li mette in tasca! Se c'ho 1 miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano! Ce l'ha lei 1 miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, bene, di quello che ho bisogno. Direttore! Ma dove siamo arrivati? Adesso è un po' così. Cioè, l'importante è però, dico, salviamo il sistema bancario, ci mancherebbe, perché sennò va giù tutto. Poi giratela anche a noi questa salvezza. Fateci vedere qualcosa. Fateci vedere la luce in fondo al tunnel, e non come scrisse un mitico ascoltatore, sì, l'ho vista anch'io, la luce in fondo al tunnel è quella del treno che sta arrivando contro. Grazie Moria Longo, del Sole 24 Ore. Adesso il meteo e la pubblicità, più 0,16% il FTSE MIB, meno 0,60 Francoforte, meno 0,17 Parigi, meno 0,54 Londra, meno 0,50 l'America, Milano positiva per Luxottica, più 6% dei conti, ne parleremo con il numero 1, Andrea Guerra, fra tre quarti d'ora. Monte dei Paschi più 4, Mediolanum più 3,20, UbiBanca più 2, Popolare Milano più 2, Unicredito più 1,7, Azimut più 1,70, Banco Popolare più 1,5. Insomma, la risposta del mercato mi sembra netta. Facciamo meteo e poi gli allevatori, quote latte e poi la borsa, così diamo anche un attimo di tregua ai mercati. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mentre le banche, come abbiamo spiegato, possono, grazie all'operazione molto intelligente, non priva di qualche rischio, di Mario Draghi, dare a garanzia dei debiti e poi ottenere dei prestiti, ripeto, sarebbe bello, era una battuta, ma insomma un po' un paradosso, se anche noi potessimo andare in banca a dare come garanzia dei debiti e poi... c'è chi l'ha fatto, i grandi gruppi too big to fail, quei grandi gruppi che erano indebitati per miliardi, poi insomma era difficile farli rientrare perché e bisognava trovare forme di ristrutturazione dei debiti. Ma dicevo, mentre questo sta capitando, forse si sta chiudendo per la, e spero per l'ultima volta, la, il tema annoso, la saga, la tragicomica delle quote latte italiane. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, perché la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato oggi a larga maggioranza, con l'esclusione dei componenti della Lega Nord, la risoluzione che impone il pagamento delle quote latte, delle multe per le quote latte in base alla legge vigente. Allora, la Lega è uscita, ma comunque la posizione del governo è quella del Parlamento. Ricordo sulle quote latte, praticamente noi abbiamo già pagato dal 98 al 2008 4,5 miliardi di euro di multe, tutti le abbiamo pagate. Attualmente è inutile che gli splafonatori mi dicano che i dati non sono veri. Noi li abbiamo verificati, questi sono i dati ufficiali. Su 31.000 aziende in regola ci sono 660 splafonatori irriducibili. C'è una legge, le quote si possono comprare se tu produci più del previsto. Che poi la legge sia sbagliata, la direttiva europea sia sbagliata, siamo anche disposti a ragionarne, ma non è che, siccome non sono d'accordo con le cinture di sicurezza o con l'etilometro, mi rifiuto di fare il palloncino di mettere. Intanto rispetti la legge, poi farai una battaglia europea legale per cambiare le quote latte italiane. Allora, c'era anche il collegamento in attesa dell'onorevole Fabio Ranieri, parlamentare della Lega Nord, presidente dell'Associazione Produttori di Latte Emilia Romagna, che è stato multato per 1.700.000 euro, poi ha messo giù qualche secondo fa. Ranieri, la stiamo ricercando, se ci sente intervenga, perché vogliamo sentire la sua posizione come Lega Nord. Grazie intanto a Andrea Busetto Vicari, che è un agricoltore del pesarese, che ha avuto una storia, cioè, ha avuto la vita rovinata e cambiata da questa storia delle quote latte. Buonasera Busetto Vicari. Buonasera Vicari, se non le dispiace. Vicari, no, non mi dispiace. Busetto, Andrea Busetto. Busetto Vicari, va bene. Che però sta a Pesaro. Però sto a Pesaro, sì. Vabbè. Salve, si ricorda di me lei, evidentemente. Beh, io sono molto grato che vi siate ricordati. Se l'abbiamo chiamata non è perché abbiamo sbagliato numero, Vicari. No. Cioè, allora, lei quanto pagò per acquistare le quote latte a suo tempo, visto che si possono acquistare da altri produttori? Beh, guardi, io ho cominciato come un pollo, perché oggi vorrei fare una piccola premessa, se mi consente. Mm-hmm. Che è questa. Io aspettavo, tra l'altro, quando mi avete chiamato ero dentro la GEA a salutare un vecchio funzionario della GEA col quale avevo un buon rapporto quando facevo l'allevatore, nonostante la GEA mi abbia massacrato in 20 anni, nel senso che ricordiamo quello... che la GEA è l'agenzia che deve riscuotere le multe. Esatto. Sì, però è anche l'agenzia che attribuiva, prima si chiamava AIM, che attribuiva dalla fine degli anni 80, quando io cominciai, questo sventurati 25 anni della mia vita, forse buttati via. La cosa triste che volevo dire, che sennò mi passa, perché sono molto emozionato, perché io pensavo che nel momento in cui si fosse arrivati, sempre che sia vero, a una soluzione di giustizia, per cui insomma, come dice lei, magari io non ero mica tanto convinto, e non lo sono neanche, che le cose sono state fatte bene e che la legge fosse giusta, però qualcuno mi deve spiegare come mai ci sono 670 che se ne sono infischiati, protetti dalla Lega in maniera indecorosa, ok? E invece gli altri migliaia, compreso il sottoscritto, cosa siamo, dei polli? Ok, allora io pensavo che quando ci si fosse arrivati, sembra che oggi non ne sapevo nulla, non lo sapevo, mi occupavo di altro oggi, leggevo altre cose, sui giornali me l'avete detto voi, e pensavo di essere, che sarei stato felice, invece sono triste, sono come dire, perché sono emozionato, sono sconvolto. Perché alla fine di questi 670 ce ne saranno un po', come forse l'onorevole Ranieri che ha fatto il capopopolo su queste battaglie. Sì, se venisse in trasmissione era in attesa, ha messo giù. Sì, vabbè. Però lui si è fatto la sua, lui si è risolto i suoi problemi, perché se anche gli portano via le vacche, lui fa i parlamentari. Vabbè, fa comunque adesso restiamo sui temi nostri. Io adesso le vacche non parlo di persone che non ci sono. Le ho vendute, perché non ne potevo più, perché fare l'allevatore di vacche da latte è urbino, è diverso che farlo in una padana. Ma non ne potevo più perché una serie di ingiustizie come quella che io e moltissimi miei colleghi culminata con un incendio doloso il giorno dopo che avevo detto queste cose. Anzi, mi meraviglia che lei sia ancora, come dire, vivo e vegeto dopo quello che ha detto qualche mese fa, perché insomma li ha definiti, com'è che li aveva definiti? Banditi, sono dei banditi. È stato un po' forte, io mi ricordo che ci conoscemmo a quel momento. Glielo posso confermare, perché comunque questo... al di là delle minacce che ricevo io, che sono... Io ho speso molte centinaia di migliaia di euro. Quanto ha speso lei, per far capire che poi... Io ho speso molte centinaia di migliaia di euro per mettermi in regola, non ho mai prodotto, pur essendo pensi in comunità montana, per cui io che ero in comunità montana, in montagna... sono stato doppiamente pollo, perché non c'è stato nessuno mai che in Italia abbia speso una lira di super prelievo, pagato una lira di multa, perché nell'ambito delle compensazioni per fasce di pianura, di montagne, di zone svantaggiate, la montagna è sempre rientrata nella compensazione. A me pareva doveroso, per star tranquillo e per non avere, per potermi dedicare al lavoro, non avere rischi, come dire, imprenditoriali di pagare multe. Sì. E ho comprato le cose, come ha fatto la grandissima Busetto, si fermi un attimo, sennò io allora ho crisi d'identità, non so più cosa devo fare qua dentro. Ma mi dica una cosa, lei quanto ha pagato di quote complessivamente? Circa 600, tra 600 e 700 mila euro, non mi ricordo in precisione assoluta. Ecco, no, insomma, questo per far capire chi è in ascolto, che quando poi parliamo degli allevatori onesti, che sono la stragrande maggioranza, e quando producono più del dovuto, vogliono produrre di più, vanno a comprare le quote da altri allevatori. Oppure se la vende, smette, cambia mestiere, va a fare un altro mestiere, si va a vendere, e si vende la sua quota. Esatto. È una licenza, allora, a produrre, come il Busetto, farmacista si vende. Busetto, un attimo. Scusi. Sono emozionato. No, ho capito. Perché... C'è modo essere emozionato. Lei è emozionato in maniera estroversa. Allora, sto dicendo un'altra cosa. Che queste quote costano tantissimo, cioè non sono, uno può pensare, vabbè, se è una quota latte, qualche migliaio. No, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. Prego. Guardi, sono costate anche l'equivalente di, quando c'erano ancora le lire, di 1500 lire al litro. Per ogni litro di latte, per la potenzialità di produrre latte in pianura padana, dove ce n'erano di meno, c'è gente che ha pagato, amici miei, che sono indebitati fino al collo per avere voluto rispettare le regole di questo Stato corrotto e corruttore, come dice quello che alle 9 di mattina la precede e che c'ha tutta la mia stima, Giannino, oltre che lei, perché questo è uno Stato debole coi forti e forti coi deboli. Ci sono stati allevatori onesti che per poter produrre e sviluppare le loro aziende si sono indebitati per milioni di euro, comprando il diritto a produrre latte. Eravamo 100.000 allevatori, una volta sono rimasti 30.000, ma in 10 anni. Quei 70.000, mica che sono morti tutti, hanno scelto di fare altre cose, hanno venduto le loro quote. E ci sono allevatori che hanno pagato il doppio di quello che gli veniva pagato il latte. Sì, allora, su questo vorrei essere chiaro. Allora, che sulle quote latte, a suo tempo, era il ministro dell'agricoltura Pandolfi, un DC di lungo corso, che sulle quote latte vi sia stato probabilmente una miopia, un errore italiano, possiamo ragionare, a suo tempo Pandolfi barattò, tra virgolette, le quote di produzione siderurgica, cioè il fatto che l'Italia potesse continuare ad avere delle quote di produzione siderurgica forti, fortissime, tutta la zona del Bresciano, Bergamasco, ma non solo, in cambio di una riduzione delle quote latte. Questa fu poi la lettura degli anni successivi. E quindi l'Italia, secondo molti, secondo anche molti leghisti, secondo molti allevatori, è stata penalizzata più del dovuto a favore del latte del nord, diciamola tutta, e ci tocca importare il latte. Questo è un ragionamento su cui si può discutere, si può invitare il governo a rinegoziare le quote, a fare una battaglia e quant'altro, ma non pagare perché difesi da un partito, o perché un partito c'è un rapporto, l'abbiamo anche spiegato, un po' strano, alcuni di questi produttori di quote latte erano soci della banca Credit Euro Nord, la banca fallita della Lega, lì poi si allarga la vicenda. Ecco, non pagare è commettere un reato ed essere un bandito. Ranieri, mi dispiace che non ci sia, perché era in attesa un minuto prima, non so cosa l'abbia irritato, l'onorevole Fabio Ranieri, parlamentare Lega Nord, parmigiano, perché io volevo chiedergli come si sentiva lui, visto che ha accumulato multe per 1.700.000 euro. Non gli avrei chiesto se era questo il suo sospetto, come sta andando l'indagine del PM milanese Frank Di Maio, che gli ha contestato una truffa da 1 miliardo di euro con la cooperativa Giuseppe Verdi e dichiarazioni fraudolente per 4 milioni di euro. Non gliel'avrei assolutamente chiesto, e quindi tutta la vicenda che riguarda l'indagine di Frank Di Maio su 28 cooperative utilizzate. Mi dispiace, perché se il suo timore era che io parlassi dell'indagine, non avrei parlato. Grazie intanto Andrea Busetto Vicari. Ha avuto altri atti di intimidazione? Adesso lei lavora bene? Mi fa dire un'ultima cosa? Sì, però breve, perché breve. Brevissimo. benissimo, io non faccio più l'allevatore di vacche da latte, non ho rimpianti, sono solo triste perché questo è un momento comunque triste, perché ci sono 700 famiglie che adesso saranno ulteriormente in difficoltà. Il problema è che uno Stato che fa il duro con i poveracci agricoltori e che privilegia sempre gli interessi della grande distribuzione e delle grandi industrie, a discapito dei piccoli agricoltori, e le garantisco che ce ne sono molti onesti, e non sta a guardare, per esempio, all'interno della GEA le famose, le enormi truffe, le clamorose truffe, non solo nelle quote latte, ma in infinite altre settori di attività agricola che, per esempio, hanno usufruito di contributi comunitari. E questo, se volete, un giorno ci possiamo tornare sopra, visto che ho smesso il collaboratore, ma non smetto. Il punto, Vicari. Mi dica. Bene, il punto è che questo è uno Stato corrotto e corruttore. Ma questo e, così non si può andare avanti. Lei mi dica, ho capito, mi dica solo una cosa. Sì. Ha avuto altri atti di intimidazione, fa altro, non fa più la legge. Non c'è più niente da farmi bruciare, perché non ho più le vacche, non ho più la stalla, mi posso andare a fuoco alla macchina, ma non me ne frega niente. Ecco, insomma. Diciamo, non li inviti a farlo. Non li ho più, spero di non vederli più. Però le dico la verità, mi fanno pena. Beh, però oggi lei dovrebbe essere contento, perché rispetto a uno Stato che lei appunto ha definito corrotto e corruttore, e in commissione Camera è passato il principio per cui le multe sulle quote latte sì. Pagano, e la posizione del ministro delle politiche agricole Catania, Mario Catania, ha detto: la nostra posizione è identica a quella del governo. Almeno questo prendiamolo come una buona notizia, dopo, così magari non ci occuperemo più di questi milioni di multe sulle quote latte. C'è chi scrive: Barisoni si vergogni, non sa di che parla. Vabbè, capita spesso questo problema. Vai. Allora, adesso la borsa, intanto ci ha lasciato Andrea Busetto Vicari, la borsa dopo il traffico, Milano alla fine ha azzerato tutto il guadagno, 0,04% in più, più 0,04%, Parigi meno 0,04%, Francoforte meno 0,46%, l'America meno 0,26%, Londra meno 0,93%, 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico. Di nuovo in diretta, nel frattempo sulle quote latte ci scrivono anche altri allevatori, vabbè, un po' di insulti, ma ci mancherebbe, alcuni che dicono di aver pagato fino a 500.000 euro per queste quote latte, ma cioè, ci rendiamo conto che c'è gente che mette in pegno la casa e altri investimenti per pagare le quote, e poi c'è qualcuno che dice: no, io non le pago perché non sono d'accordo, così, la borsa. Azzerati i guadagni, ma le banche di Luxottica, parliamo dopo direttamente con Andrea Guerra, più 6% oggi, ottimi dati sull'anno scorso, quindi bilancio 2011. Dicevo, la reazione del mondo dei mercati al maxi prestito, superata ogni previsione, le banche si sono tuffate sull'offerta di Draghi, oltre 529 miliardi, complessivamente 800 banche europee, ripeto, manca qualcuno, ma sono tutte lì. In Italia oltre 100 miliardi di richieste. E allora, insomma, la reazione e il commento è chiaro da parte della borsa, come sempre il commento con Radio Cori, Sole 24 Ore, e saluto e ringrazio per quello che riguarda il commento di borsa, chi c'è di Radio Cori? Guido Maurino, grazie Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Scusami, non trovavo la eccoci qua. Allora, per quello che riguarda l'andamento del mercato, Monte dei Paschi più 4%, Mediolanum più 3,24%. Sì, tutto il settore bancario, anzi buona parte del settore bancario, perché alcuni titoli hanno ritracciato sul finale, ha accolto molto positivamente l'operazione della BCE a cui accennavi tu prima, per quello che riguarda Monte dei Paschi. Poi c'è anche sempre ancora in ballo la questione della fondazione, che deve collocare un pacchetto del 15% di Monte dei Paschi per in qualche modo far fronte agli impegni che ha preso sul suo indebitamento, e c'è anche la questione sempre legata appunto a questo pacchetto del Presidente, perché chi vorrà acquistare questo pacchetto di azioni MPS ovviamente chiederà anche delle garanzie sulla governance. Si parla di Profumo, oggi il Sole ha parlato anche di un possibile rientro sulla scena di Divo Gronchi, che era già stato in Monte dei Paschi per molti anni. Insomma, ci sono molte questioni aperte sul tavolo di Monte dei Paschi che continuano a tenere sotto i riflettori il titolo. Per quello che riguarda il resto, Mediolanum più 3,24, UBI più 1,99, Popolare di Milano più 1,91, sono tutti, come dire, rialzi che rientrano un po' nel buon andamento generale del settore bancario. Allora, questo vale sempre Monte dei Paschi e tutte le altre banche citate. Unicredit, insomma, ha un'altra vicenda, guadagna un più nel 70%, ma insomma chi tocca i fili muore, no? Si dice una volta, lì chi tocca le fondazioni muore in Unicredit. Profumo è saltato, adesso anche Rampl, no? Sì, anche Ramp. Non faccio la battuta, non c'è due senza tre. Anche Ramp è saltato. Al Forex era proprio stato Ramp a dire una settimana fa, non più tardi, che lui era anche disposto a fare un ulteriore mandato al vertice di Unicredit se c'era l'accordo di tutti. Sembrava, dopo quelle parole, che in qualche modo fosse stata trovata una quadra, insomma, se un presidente esce allo scoperto in quel modo, alcuni hanno pensato che fosse fatta per Ramp. Ma la quadra l'hanno trovata, mandar via lui. Infatti le fondazioni in realtà questa settimana si sono incontrate più volte e sostanzialmente hanno deciso di non rinnovargli la fiducia e Ramp ne ha preso atto. Sostanzialmente la decisione di ieri è un po' quella di dire: prendo atto che non c'è più un accordo, certo, sul mio nome. Va anche considerato che il peso dei tedeschi dopo la fusione fra Unicredit e HVB si è notevolmente ridotto, diluito, sono state sì. vendute delle quote, sono sì, più alte. Lui era espressione di Ipovereins Bank, appunto, che pesa, tra virgolette, sempre meno. Telecom Italia, perché oggi i soci della Telco, che è la holding, la società di controllo, hanno chiesto un rifinanziamento, no? Sì, oggi i soci di Telco hanno annunciato che hanno avviato le trattative col sistema bancario per arrivare al rifinanziamento del loro debito. È un debito molto elevato, sono 3,4 miliardi di euro che va in scadenza ad ottobre. Ci sono varie soluzioni sul tavolo, da un rinnovo, diciamo, del prestito bancario a soluzioni intermedie che vedrebbero la partecipazione anche degli attuali soci di Telco, quindi Telefonica, Generali, Intesa San Paolo e Mediobanca. Insomma, si inizia a gettare le basi in vista della scadenza di ottobre. Il titolo, d'altra parte, aveva corso molto dopo i conti, in qualche modo era anche fisiologico qualche presa di beneficio, ho già ceduto l'1,14%. Sì, alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666 che cosa è successo verso le 16.30 che Milano ha azzerato i guadagni. In effetti non solo Milano, ma la reazione iniziale era stata più che buona alla Banca Centrale Europea, al Mario Draghi in versione Federal Reserve, senza che i tedeschi lo capiscano. Sì, è proprio la Federal Reserve è stato il problema, perché c'è stato questo intervento di Ben Bernanke che ha tracciato un po' il quadro della situazione dell'economia americana, ha usato parole molto prudenti. Sì, però ha detto anche che ci sono segnali di miglioramento, non so, mi sembrava così negativo, forse. No, lui è stato, diciamo, cautamente positivo, però in una situazione in cui i mercati vogliono sempre di più, dopo l'anno della BCE volevano sempre di più. Ma cosa vogliono di più? Poi andiamo a dargli anche i nostri i soldi. Cioè, hanno ottenuto 520 miliardi dalla Banca Centrale Europea, l'America sta stampando più moneta che noccioline, ancora di più, vabbè. Senti, Guido, Mediaset meno 2,46%, ST Microelectronics meno 2,20%, Diassori meno 2,14%, Mediobanca meno 1,60%, i titoli peggiori. Dopo commenterò anche Ligresti e Archimedica. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Grazie agli ascoltatori per avermi precisato che le noccioline non si stampano, mentre i dollari sì. Guido Maurino, chiudiamo con la galassia fondiaria SAI, anche oggi sotto i riflettori. Tra l'altro, questo mi permette anche di dare i migliori e i peggiori: Digital Brothers meno 7,20, Neurosoft meno 6,60, e Milano Assicurazioni meno 4,17, bene invece Archimedica più 10,10 e poi Investimento e Sviluppo più 19. Fondiaria SAI. Sì, per quello che riguarda appunto la galassia Ligresti, oggi ha guadagnato Premafin più 1,95, mentre Fonsai ha ceduto il 5,54% e Milano Assicurazioni il 4,17%. Quello che è emerso in queste ore è che si lavora sempre più a una soluzione targata Unipol. per cui viene un po' meno l'appeal speculativo dal momento che la proposta di Salvatore Palladio non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione. Continua a guadagnare invece Premafin, perché c'erano stati un po' di dubbi ultimamente sul fatto che Premafin potesse essere esclusa dal perimetro di consolidamento del piano di ristrutturazione, cioè lasciata fuori con una fusione solo a livello di società operative. In realtà Premafin, le banche stanno cercando di portarla comunque dentro, e questa è una notizia positiva per Premafin, che appunto oggi ha guadagnato in borsa. Vince quindi l'opzione Mediobanca per ora, perlomeno. Grazie Guido Maurino. E visto che la citavamo come il miglior titolo di oggi, parliamo di un'azienda, di un gruppo italiano che, nonostante la crisi, continua a crescere sia in termini di ricavi, guadagni e anche punti vendita. Eh sì, è un happy world, un mondo felice sicuramente per Luxottica, leader mondiale negli occhiali di alta qualità, ma insomma un gruppo che sembra vivere in un'altra galassia. Perché lo dico? Perché non solo la crisi si è sentita molto poco da quelle parti, nel Bellunese, la storica azienda fondata da Del Vecchio, ma i dati diffusi oggi vedono l'utile salire a 452 milioni nel 2011 e il dividendo, cioè l'utile distribuito agli azionisti, cresce dell'11,5%. L'aumento del fatturato nei paesi emergenti, nei nuovi paesi ricchi, è stato del 30%. E poi Luxottica, che ogni tanto, no, lo ricordiamo, vara iniziative di welfare aziendale, quindi dà le azioni ai dipendenti, paga le visite mediche oltre ai libri e le borse di studio ai figli dei dipendenti. Insomma, un altro pianeta lì nel Bellunese. E siamo in collegamento con il numero uno di Luxottica, non in tema di proprietà, ma come manager, come amministratore delegato. Mi riferisco ad Andrea Guerra. Buonasera. Buonasera. Che anche lei è un po' un marziano, nel senso che non è figlio del proprietario, no? Non lo dico con massimo rispetto per i figli di imprenditori, non ha il capitalismo relazionale che ogni tanto contraddistingue questo paese, è giovane, cosa, 43 Guerra? Io morirò giovane, ormai ne ho 46. Sono, vabbè, 46, vabbè, però ormai... in Italia sono giovane, in Italia è giovane, per il mondo non tanto. Ha 46 anni e appunto ha un profilo, una classica esperienza e percorso manageriale. Ricordo che Luxottica ha appunto i marchi, tra l'altro Ray-Ban, Oakley, Vogue, Persol, realizza i prodotti per Bulgari, Barbary, Chanel, Dolce & Gabbana, Prada. 6 miliardi e 200 milioni di euro giro d'affari, capitalizza 12 miliardi di euro in borsa, dove è quotata, e oggi è andata appunto molto molto bene. I principali azionisti sono appunto Del Vecchio con 66,9% e Giorgio Armani con quasi il 5%. Abbiamo già citato il dato sul fatturato, quindi Cina, Sud America. Voi avete in Cina 225 punti vendita, ne avete aperti 70 in Messico, 470 tra Cile, Perù, Ecuador e Colombia, e avete comprato la brasiliana Tecnol. È lì che si cresce. Noi abbiamo battezzato 5 paesi, perché poi alla fine uno si deve concentrare in qualche modo, 5 paesi in cui abbiamo deciso che quelli devono essere casa nostra, e per cui fornire alle 5 migliori città di quei paesi un livello di servizio esattamente come lo serviamo a Parigi. E quei paesi sono Brasile, Messico, Turchia, India e Cina. E che significa questo? Significa fare investimenti culturali, persone, infrastruttura, supply chain, sistemi informativi, marchi, grande lavoro nel lungo periodo. E però poi, quando uno è a casa in quei paesi, respiri un'aria completamente diversa, e il Brasile è uno di questi casi. Se sei un importatore la tua vita è un po' complicata, se sei domestico la tua vita è molto più semplice. E per i dazi che il Brasile pone, immagino? sono dazi più tutta una serie di tasse interne che prendono il prezzo del bene importato come punto di partenza e da lì fare una serie di moltiplicazioni folle. Per cui se uno produce localmente, come da due mesi facciamo, è un conto, se uno importa un bene il prezzo finale è completamente diverso. Sì, ecco, lo sviluppo prorompente, forte del Brasile, di Lula e non solo, si è fatto anche con una grossa capacità di attrarre capitali esteri, ma anche dei grossi dati doganali all'ingresso, lo dico anche all'Europa, che invece su questo è stata sempre un po' più così, un po' più signora, ma forse anche tre volte buona, come dicono a Venezia. Allora, dicevo, lei parlava del Brasile, i dati che oggi avete diffuso, che è il motivo, la scusa per la quale lei è ospite, sono, la dicono lunga, più 30% sui paesi emergenti. Se volessi usare Luxottica e i vostri punti vendita, visto che sono centinaia in giro per il mondo, come l'indice Mac dell'Economist, l'indice Lux, chiamiamolo così, voi dove vedete l'espansione, dove vedete invece la contrazione? Perché l'occhieria è lusso, anche se è un lusso che per alcuni è diventato quasi, uso un termine forte, ma insomma quasi un bene di necessità, cioè non è più lusso puro. Allora, noi abbiamo diviso nei nostri piani interni il mondo in tre macro regioni. La prima sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti noi abbiamo più di 3.000 negozi e negli Stati Uniti ci aspettiamo un 2012 con un buonissimo ritmo. Lo vediamo ormai da circa 15-18 mesi e non ci aspettiamo nulla di diverso nel 2012. Ed è una regione che va bene ovunque, va bene nel sole, va bene nella vista, vanno bene i marchi del lusso, vanno bene i marchi sportivi. Cioè lì la ripresa si vede già nei consumi interni, questo mi sta dicendo, negli Stati Uniti. Interessante. Sì. Quindi quella regione è la regione che sicuramente a noi fa più piacere vedere in queste condizioni. Due, i paesi emergenti. E i paesi emergenti è evidente che hanno scoperto un livello di consumo diverso, hanno scoperto come riuscire a far valere per tanti di loro le loro grandi risorse naturali, hanno trovato un minimo di democrazia, alcuni, altri la stanno forse cercando, e sono paesi molto più stabili di un tempo, per cui ci aspettiamo un altro 2012 velocissimo. Per poi arrivare in Europa, e l'Europa è molto diversa, perché comunque dalla Francia in su non mi aspetto niente di sorprendentemente negativo. Cioè la situazione è stazionaria? Abbastanza stazionaria, ma vorrei dire anche positiva, però solida. Cioè Germania, Danimarca, Finlandia, esatto, Scandinavia. Inghilterra, anche che poi è sempre di più Londra e meno Inghilterra. Sì. E poi abbiamo i paesi mediterranei, ce ne stanno due, anche se poi il Portogallo nel Mediterraneo lo mettiamo sempre là dentro, Portogallo e Grecia, che sono un po' usciti dalla mappa. E poi abbiamo i due grandi, Spagna e Italia. Spagna e Italia, noi abbiamo concluso il 2011 a più 10 abbondante, quindi bene, però è una roba che ci preoccupa ogni giorno, quindi stiamo ogni giorno a guardare il sell out dei negozi, gli inventari. Allora, facciamo una cosa, dopo il traffico, dottor Guerra, vorrei capire ancora di più sull'Italia, se vedete dinamiche differenti nei consumi, nella spesa a livello anche regionale. Il traffico però 349-238-6666 per i vostri sms. 18:19 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte del programma. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Luxottica, Andrea Guerra, per parlare del gruppo che oggi ha pubblicato dati ottimi, li abbiamo appena ricordati, sia sul fronte utili che dividendi, e poi è il miglior titolo oggi in borsa, più 6,06%. Chiedevo, dottor Guerra, utilizzando i vostri negozi, 7.000 in giro per il mondo, in questo caso mi interessa però l'Italia, usandoli un po' come un indice, lei è d'accordo con quanto ci diceva alcuni mesi fa il numero uno del gruppo Coin, e quindi Stefano Beraldo, che nel sud Italia era un altro pianeta rispetto al centro-nord, sia per quello che riguardava Coin, OVS e Upim, cioè ferma, consumi bloccati, fermi, sottoterra? Io le dico che l'Italia è ferma, punto, che sia il nord un po' meglio del sud non c'è dubbio. Diciamo che le temperature basse non hanno aiutato, il gelo e la neve. Speriamo che questa primavera anticipata riporti un pochino di ottimismo. Però penso... Guerra, lei sa che se io l'occhiale me lo sono comprato 2 anni fa o 3 anni fa, posso anche, diciamola tutta, mantenere l'occhiale di 3 anni fa, cioè c'è un utilizzo anche voluttuario del bene, non è solo... Cioè... No, ci sono gli occhiali da vista in cui invece è più un no, bisogno. No, quello sì. Esatto. Quello sì. Beh, mi interessava la parte dove c'è più scelta, non dove c'è più obbligo, lì uno va a toccare anche i risparmi, ma nella parte in cui c'è più scelta, voi questa frenata la vedete? Nelle allora, scelte? Noi siamo ripartiti gennaio e febbraio in Italia, siamo a più 3, quindi ancora noi siamo positivi. Detto questo, è evidente che dobbiamo essere vicinissimi ai nostri clienti, anticipare le uscite delle collezioni, fare progetti speciali, investire un po' più in pubblicità. Però quello che io respiro in Italia è che c'è un po' più di serenità oggi rispetto a qualche mese fa. Su questo volevo sentirla, perché appunto avendo lei centinaia, quanti sono i punti vendita all'estero vostri, se lo ricordo? Quasi 7.000. 7.000, di cui fuori dall'Europa, vediamo se... Quasi tutti, 90% fuori dall'Europa, in Europa siamo soltanto in Inghilterra e se la Turchia è in Europa, Inghilterra e Turchia. Quindi su 7.000 punti vendita, diciamo, la stragrande maggioranza fuori dall'Europa. Ecco, visto che poi lei per lavoro gira, apre punti vendita, tra l'altro mi ricordo ancora un'intervista che facciamo un anno fa in cui ci raccontò che i 220 punti vendita che avete in Cina vi servono solo per presidiare i centri urbani più importanti, cioè per stare nel centro storico, cosa impressionante per noi, no? 220 punti vendita solo per presidiare i centri storici. Ma chiuso l'inciso... Che cosa sta registrando come immagine dell'Italia, al di là delle dichiarazioni istituzionali, ufficiali che abbiamo detto, raccontato, l'apprezzamento anche oggi, l'intervista di Barroso, ieri Juncker, Barack Obama, ma insomma, quando lei parla con i suoi colleghi manager? Siamo un paese buffo, perché passiamo dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle ad una velocità straordinaria. E molto dipende dalle personalità che ci guidano. Oggi se lei va in giro per l'Europa e anche per gli Stati Uniti, se prima ci chiedevano ma quest'inverno ci avete un cibo per passare l'inverno? No. Ma così le chiedevano? Ma quasi, se avevamo la luce in casa, ora esagero, però era abbastanza forte la preoccupazione nei confronti dell'euro, dell'Italia, eccetera. Oggi siamo... immediatamente, e io non dico esageratamente, mi piace questa voglia d'Italia, questo ottimismo italiano, un minimo abbiamo recuperato tantissima credibilità e, come dire, abbiamo anche a capo una persona che fa i compiti a casa, che quando parla sa cosa dice e soprattutto quando va in Europa sa come funzionano le regole. Sì, che fa i compiti scritti, perché come diceva un vecchio finanziere scomparso, Giovanni Svetlic, qua in questo paese siamo molto bravi in orale. È vero. Lui, no? E invece bisogna anche studiare lo scritto, non so essere bravi solo in orale. Vabbè, la classe politica, ma non solo, non solo. Detto ciò, quindi lei nota, perché sa, quando si vende Made in Italy, è vero che la prima cosa del Made in Italy è la qualità, il lavoro industriale, ma fatto con una precisione artigianale, con una... qualità artigianale che riusciamo a fare solo noi, però si vende anche Made in Italy, cioè si vende anche Italy, no? Allora è difficile vendere un paese che non gode di credibilità. Lei nota che c'è stato un brusco cambio di rotta in senso positivo in questo caso? C'è stato un brusco cambio di rotta, quello che mi dispiace è che oggi non si possa elaborare un progetto di lungo periodo per l'Italia, di cosa rappresenta l'Italia nel 2015 nel mondo, questo è un po' il peccato, perché sarebbe molto bello, dopo aver curato l'emergenza, veramente raccontare cosa rappresenteremo noi nel mondo tra un po' di anni. Cioè, riuscire a, come ci disse quella bellissima intervista, bellissima secondo me, il preside di sociologia alla Cattolica di Milano, trovare nuove forme per riallacciare un'identità che è scomparsa in questo paese, no? Cioè, penso di sì. Dei principi di generatività li ha chiamati lui. Allora, su questo però, guarda, è vero che lei dice non sono più un giovane, però lei è arrivato in Ariston giovane, è arrivato in Luxottica giovane, 46 anni in questo paese, è un'età in cui si è ritenuti ancora giovani. Secondo lei, in questa polemica su cui molte volte siamo tornati, sfigati, bamboccioni, il lavoro monotono, c'è uno scollamento tra il governo dei professori che al massimo come giovani conoscono gli studenti da bocconi e invece i giovani di adesso? Allora, oppure hanno ragione, perché lei mi dice guardi, ma alla fine anche ai tempi miei era così, se uno si rimbocca le maniche, pianga un po' di meno e poi va avanti. Cioè, hanno ragione i professori, i tecnici del governo, o c'è un po' di incomprensione, di salto culturale, quindi anche logico. Io penso che ci sia un'evoluzione generazionale forte e gli ultimi salti generazionali sono forti. E quindi evidentemente c'è anche una, come dire, esigenze dei giovani che cambiano, che evolvono, certamente che uno non deve rappresentare quella monotonia del posto fisso, quello è sicuro e mi sembra una caduta di stile che poi è stata anche dichiarata. Però è evidente che l'idea del posto fisso come l'abbiamo avuto fino ad oggi è un concetto che forse non ha senso esattamente come lo è stato, perché poi cosa ha prodotto questo concetto del posto fisso? Ha costruito l'idea di due mercati del lavoro, per cui chi ce l'ha che è super garantito, chi non ce l'ha che non è affatto garantito, e penso che il grande sforzo sia quello di riuscire per i giovani da un lato, ma anche per tutte quelle persone che sono grandi portatori di esperienze di valore aggiunto specifico e tecnico, che sono, come dire, i nostri anzianotti che abbiamo in tutte le nostre aziende, che sono delle persone fantastiche, riuscire a capire come si entra e come si esce dal mercato del lavoro senza traumi. E credo che di idee ce ne siano. Bisogna avere un po' di fiducia, un po' di fiducia. Sì, però l'uno lei con l'altro. Quando gira il mondo, siccome appunto avete sede ovunque, nelle economie più sviluppate, noto una differenza, me la dica tutta, guarda, tra i giovani nostri, lei ha figli se non ricordo male, sì. Non ancora così, diciamo così, no. In età di lavoro, però noto una differenza tra i giovani di questi paesi emergenti, oppure ci sono molti luoghi comuni, in realtà siamo noi che non li sappiamo leggere? No, qualche è ovvio che soprattutto, certo. Soprattutto quando uno va in questi grandi paesi dell'Asia, non solo hai degli ingegneri ultra qualificati che ovviamente rispetto a degli altri ingegneri in giro per il mondo costano di meno, ma c'è una voglia, una passione e anche un numero di ore che queste persone sono pronte a mettere sul tavolo di lavoro, ma come i nostri papà negli anni 60 e 50 hanno fatto, che evidentemente non troviamo ovunque, per cui c'è sicuramente una grande voglia di mettersi in gioco. Gli italiani secondo me devono fare un grande passo in avanti, che è quello veramente di immaginare un'Italia che è molto più aperta rispetto a quello che è oggi, e per cui gli italiani molto più aperti, molto più capaci di vivere ovunque, di recepire tutte le culture, e credo che questa sia una delle grandi basi per il nostro futuro. Senta, guarda, lei che appunto gira il mondo per tutti, avete questa capillarità che mi interessa più del grande, la grande fabbrica messa nel... la capillarità in tutti questi posti. I suoi figli, gli farà studiare il cinese, li manda all'estero, gli dice di restare in Italia, cioè che gli fa fare? Sai, il punto cruciale è compra un'azienda, uno. Gliela dà? No, beh, tanto il punto numero uno è parlare l'inglese meglio dell'italiano, e questo prima lo si impara meglio è, quindi è come andare in bicicletta o provare a imparare a sciare a 40 anni rispetto a quando uno ne ha 8. E quindi l'inglese uno deve sapere in modo migliore dell'italiano. Il secondo punto è passare dei lunghi periodi fuori dall'Italia, per poi tornarci, ma uno deve avere la capacità di lavorare ovunque, di capire tutte le culture, di capire i modi di fare, capire i ritmi, capire le cose non dette. Credo che sia fondamentale passare sempre di più tanto tempo fuori dall'Italia. E per concludere, lei che ha la fama di essere un manager appunto scelto come si scelgono i manager, come si dovrebbero scegliere i manager, per le qualità, i curricula e altre valutazioni, secondo lei c'è troppa relazione nel nostro capitalismo? C'è un capitalismo troppo relazionale, troppo fatto di rapporti più che di, diciamo, gare di merito? Non c'è dubbio. Bene. Mi basta così, mi basta così. La ringrazio, grazie al ministro delegato del gruppo Luxottica, Andrea Guerra. Buona serata. E siamo veramente in chiusura. Devo rispondere all'onorevole, al senatore Ranieri, che ci ha scritto. Allora, senatore, lei era in collegamento in attesa di parlare delle quote latte. Ha messo giù, io mi sono permesso di dire come mai ha messo giù. Forse avremmo detto qualcosa che non andava bene. Lei ci scrive che stava poco bene, la cosa strana che era in collegamento in attesa un minuto prima, venga quando vuole, non si offenda, poi faccia quello che vuole, ma insomma ci ha lasciato perplessi, l'abbiamo cercata noi appunto per sentire anche le ragioni di chi difende gli splafonatori delle quote latte. Il programma è aperto a lei, ci faccia sapere se vuole venire o che strade intende percorrere. Da Sebastiano Brisoni veramente tutto, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.